Italia in controluce. Un buongiorno da Maria Piera Ceci, come tutti i venerdì puntata dedicata alla scuola, scuola che ha archiviata la Gelmini con le sue tante riforme nel bene e nel male, con le sue gaffe, l'ultima clamorosa, la ricorderete, quella dei neutrini e del fantomatico tunnel. Scuola, dicevamo, che ha ora un nuovo ministro della pubblica istruzione, Francesco Profumo. Scuola in controluce. Non ci piace, soprattutto come studenti, perché le prime dichiarazioni di questo nuovo ministro sono state, diciamo, delle congratulazioni con la riforma Gelmini che è stata approvata lo scorso anno e che noi, diciamo, per diversi mesi, anzi per anni, abbiamo provato a contestare. Insomma, ci rattrista pensare che se la prima dichiarazione sia questa, insomma, non vediamo un futuro promettente. Un bel benvenuto davvero quello degli studenti al nuovo governo Monti. Ieri nelle piazze migliaia di ragazzi hanno protestato contro il governo da loro definito dei banchieri. E un bel saluto davvero per il nuovo ministro della pubblica istruzione, Francesco Profumo, una vecchia conoscenza di Radio 24, perché lo abbiamo intervistato varie volte nelle vesti di rettore del Politecnico di Torino, poi come presidente del CNR. Un incarico, quello di ministro della pubblica istruzione, che proprio Profumo non si aspettava. In realtà no, perché ho appena iniziato a fare presidente del CNR da poco, quindi mi stavo abituando al nuovo ruolo. Ero uno studente presidente, quindi non ho avuto neanche la possibilità di arrivare al diploma, nulla. È stata una bella piroetta quella delle ultime ore. Sì, molto, molto interessante, molto difficile, molto complicata, però insomma spero di riuscire a dare un piccolo contributo. So che è difficile per lei, ma quale sarà la cosa che ha più voglia di fare come prima? Io credo ascoltare gli studenti e i ricercatori. Perché ritiene che sia così importante? Perché credo che sia importante sentire quali sono i loro desiderata, quali sono le loro incertezze, quali sono le loro difficoltà. Quindi andare avanti con il consenso dei diretti interessati, studenti e ricercatori soprattutto. Certamente. Che sono i soggetti più interessati e anche soggetti che in questo periodo stanno protestando di più, perché soggetti a dettagli mostruosi. Questo è il tema, certo. E purtroppo la situazione è molto complicata. Questo sarà un lavoro che bisognerà pianificare negli anni. Ed ora cambiamo argomento, raramente parliamo di convegni in questo spazio, ma oggi lo facciamo perché quello che si è aperto questa mattina a Rimini è un appuntamento ormai imprescindibile per chi si occupa di educazione. Parliamo dell'ottavo convegno internazionale sulla qualità dell'integrazione scolastica e sociale, che si concluderà domenica, organizzato dal Centro Studi Ericsson, che da oltre 30 anni si occupa di didattica, educazione e psicologia. Proposito di quest'anno è quello di tentare di immaginare un nuovo modello di integrazione degli studenti disabili, perché il modello attuale, seppur con tanti pregi riconosciuti anche all'estero, sta mostrando molti limiti e va dunque ripensato, come ci spiega Dario Janes dell'Ericsson. Ecco, la situazione dell'integrazione in Italia è ancorata sostanzialmente a due aspetti. Cioè, da un lato i 95-96 mila insegnanti di sostegno che sono nominati su diagnosi medica dell'alunno con disabilità. Per cui si crea, diciamo, all'interno della scuola questa presenza che è stata utilissima, importante, però di insegnanti un po' speciali, un po' diversi, spesso relegati a ruoli di serie B. Allora, una delle proposte innovative su cui sarebbe interessante riflettere è quella che è uscita nel rapporto sull'integrazione della Fondazione Agnelli tra le Caritas, in cui si prevede l'assorbimento degli insegnanti di sostegno negli organici normali, cioè che diventino insegnanti di tutti a tutti gli effetti, e la creazione invece di delle figure specialistiche ad alta competenza tecnica che vadano a dare un supporto concreto a tutti gli insegnanti, perché l'integrazione è un affare di tutti, non è solo degli insegnanti di sostegno. Per cui una prospettiva di innovazione profonda, secondo noi, è quella di superare l'attuale figura degli insegnanti di sostegno, come dire, non abolendolo, diciamo, ma sviluppandolo, da un lato nella direzione della normalità, cioè di figure assolutamente normali, di insegnanti con titolare a tutti gli effetti, e dall'altro lato su figure invece tecniche di alto profilo di competenza che vadano effettivamente a dare risorse tecniche alla scuola. L'altro elemento è quello della certificazione. l'altro quello della certificazione, perché purtroppo il sistema italiano, sistema scolastico italiano, genera risorse aggiuntive, appunto, di sostegno, solo in presenza di una certificazione medica. Per cui è un meccanismo di rigidità che riteniamo si possa e si debba superare, perché i bisogni non sono solo quelli dell'alunno con certificazione, ma sono bisogni di altro genere, anche di altro genere, per cui noi vorremmo una visione più equa. Cosa pensa, per esempio? Penso per esempio a tutti gli alunni con disturbi dell'apprendimento, con difficoltà di apprendimento, difficoltà di comportamento, di relazione, cioè tutto quel quadro di situazioni che va tutto come bisogno educativo speciale, che ha un diritto, diciamo, di trovare nella scuola, se una scuola inclusiva, una risposta adeguata ai propri bisogni. Ma difficilmente certificabile, magari, no? Ma assolutamente non certificabili. Per cui, a questo punto, visto che la certificazione introduce una non equità, cioè tra quelli che ce la possono avere e quelli che non la possono avere, noi riteniamo che si può pensare, cioè è pensabile, diciamo, un sistema che non si basi su una certificazione medica per produrre organico aggiuntivo, ma che si basi su una valutazione più completa, più complessa dei bisogni. Dunque un modello, quello italiano, che va ripensato abolendo la figura dell'insegnante di sostegno e della certificazione, visto che ci sono nuove disabilità difficilmente certificabili. Pensiamo solo alla dislessia, ormai così diffusa nelle scuole. Non buttiamo il bambino con l'acqua sporca, dice invece Carlo Scataglini, insegnante di sostegno dell'Aquila, che partecipa ai lavori di Rimini. Io penso che la proposta sia demagogica e pericolosa, perché rischia di far tornare indietro di 30 anni lo stato dell'integrazione in Italia. Anche perché gli insegnanti curricolari, per quanto possano essere specializzati e preparati e motivati, hanno tutta una serie di complessità, di situazioni differenti nella classe da gestire, e molto spesso quello che potrebbe rimanere fuori potrebbe essere proprio il disabile, soprattutto se in situazione di gravità, che va gestito invece con una specializzazione particolare come quella dell'insegnante di sostegno. Ecco, poi sulla creazione di un ente cuscinetto tra il Ministero e le scuole che possa gestire fondi e risorse umane, sono scettico, perché abbiamo esperienze del passato che ci fanno pensare a dei carrozzoni che poi consumano risorse senza produrre risultati positivi. Ecco, su questo sono abbastanza scettico. Nessuna abolizione dunque degli insegnanti di sostegno, così importanti nella gestione degli alunni disabili, eppure c'è anche chi tra gli stessi insegnanti di sostegno vede di buon occhio un ripensamento sui loro compiti. Edrun Demo è una ricercatrice universitaria che per anni ha lavorato nella scuola accanto agli studenti disabili. Ma io credo che effettivamente la figura dell'insegnante di sostegno sia una figura critica, nel senso che si trova un po' in una contraddizione proprio per la definizione del suo ruolo. Cioè, da un certo punto di vista ha un ruolo che per legge porta la responsabilità per l'alunno con disabilità, ma per l'intera classe, cioè un insegnante assegnato all'intera classe. È però contemporaneamente anche vero che l'insegnante di sostegno viene assegnato ad una certa classe soltanto nel momento in cui vi è la presenza dell'alunno con disabilità. Quindi in un qualche modo, anche se la legge ci dice deve essere responsabile per l'intera classe, si trova un po' ad essere strettamente legato alla figura dell'alunno con disabilità. Questo la mette in una posizione difficile, contraddittoria in un qualche modo. E quindi io mi trovo sicuramente favorevole all'idea di provare a spostare le competenze dalla figura dell'insegnante di sostegno, cioè tutte quelle competenze che avevamo una volta legato all'insegnante di sostegno, andrebbero in un qualche modo allargate. Vedo certamente anche i rischi, nel senso che è chiaro che questo richiede una grande opera di formazione da parte di tutti i docenti curricolari, perché non possiamo correre il rischio di perdere quelle conoscenze, lì faremo invece un passo indietro. Ed è tutto per oggi. Scuola in Controluce torna lunedì alle 6:30. Scuola in Controluce invece vi dà appuntamento a venerdì prossimo.